il coraggio che mi dà di guardare più in là. Fra, grazie per questo rap, è la mia ancora, l'ultima chance di farcela. Come darti torto quando mi chiamavi stronzo? Adesso un vuoto da colmare, quindi riempo il foglio, riversando l'odio verso te. Nascondo il male dietro un sorriso banale, ma in fondo nessuno si accorge che ce l'ho col mondo contro tutti quanti. Se vuoi cercarmi puoi trovarmi fra diamanti. Stringo i denti mentre faccio i tagli sulle mani, a forza di spaccare i vetri adesso è troppo tardi. Non credi ormai, siamo diventati grandi. Dai, facciamo i seri, dai. Guardo gli aerei volare in alto mentre immagino di andare via da qua, ma posso solo immaginarlo. Grazie per questo rap, per il coraggio che mi dà di guardare più in là. Fra, grazie per questo rap, è la mia ancora, l'ultima chance di farcela. Grazie per questo rap, per il coraggio che mi dà di guardare più in là. Fra, grazie per questo rap, è la mia ancora, l'ultima chance di farcela. Ora guardami, non sono più lo stesso, mamma. Non sono più ragazzo chiuso al cesso con la canna. Adesso sono tormentato dalla rabbia, ho perso quella calma che non riesco più a trovare. L'ho lasciata quando lei mi chiese di lasciarla andare. È così che doveva andare. Ora mi consolo scrivendo testi, perché solo così in qualche modo resti. Faccio il cuore a pezzi, l'anima a brandelli, corro a piedi scalzi sui carboni ardenti sbronzo. Trattengo il fiato mentre affondo nel tuo sguardo, mi ci perdo dentro per l'eternità senza uscirne salvo. Grazie per la chance, per questo rap, per il coraggio che mi dà di guardare più in là. Fra, grazie per questo rap, è la mia ancora, l'ultima chance di farcela. Grazie per questo rap, per il coraggio che mi dà di guardare più in là. Fra, grazie per questo rap, è la mia ancora, l'ultima chance di farcela.